Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia. Con voi come sempre Sebastiano Barisoni, e come ricordava anche il nostro GR, stiamo trasmettendo dagli studi di Radio 24 qui a Capri in occasione della prima giornata di lavori del convegno annuale dei giovani imprenditori. Poco fa ha terminato il suo intervento il ministro all'economia Giulio Tremonti, atteso quello del ministro degli interni Roberto Maroni. Concluderà oggi il ministro allo sviluppo economico Scajola. Per quello che riguarda poi i temi, oggi e domani si parlerà molto in questo convegno di energia, perché proprio all'energia sono dedicati i lavori. Chiaro è però che, vista la giornata e visto soprattutto il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla riforma, al progetto di riforma in senso federale della parte fiscale dello Stato, chiaro è, dicevo, che altri temi sono intervenuti. E comunque, come già ricordavamo ieri con la Presidente dei Giovani Imprenditori Federica Guidi, il convegno è tutto dedicato alle energie, innovare le energie, imprese e ambiente tra sviluppo competitivo e sostenibilità. Parleremo come sempre anche di mercati. Molto buona oggi la giornata, che era iniziata in maniera incerta, nel senso che le borse avevano aperto timorose. C'era stata una brutta chiusura questa mattina a Tokyo, che era tornata ai livelli più bassi da 3 anni a questa parte, per il Nikkei un calo del 2%, apertura contrastata per tutte le borse europee, tra là con alcuni segni meno. A Mosca, seconda sospensione per la seconda volta nella giornata del listino principale a causa di un eccesso di ribasso. La borsa di Mosca ha dei problemi enormi molto spesso in queste settimane a restare aperta, o per eccesso di ribasso più frequentemente, oppure in alcuni casi anche per eccesso di rialzo. Poi però a metà giornata tutte le borse hanno preso la strada di rialzo in maniera molto netta. Perché? Beh, innanzitutto perché il governo tedesco ha ottenuto dalle autorità europee il via libera al piano di salvataggio di Hypo Real Estate Holding, che infatti è arrivata a guadagnare oltre il 60% oggi la borsa di Francoforte. Questo ha trascinato a rialzo in primo luogo i titoli bancari, mentre ricordo, ne parleremo più avanti, che è atteso il voto del Senato sul piano del Senato americano sul piano di salvataggio Paulson, quello da 700 miliardi di dollari. Dicevo, ha trascinato a rialzo tutti i titoli legati al settore finanziario, ma non solo. E quindi UniCredit riconquista quota 3 euro per azione, 3,09 più 10% in questo momento, Popolare di Milano più 6,20, Intesa più 4,1, Mediolanum più 3,80, Banco Popolare più 3,7%, e ancora Snam Rete Gas, come molti energetici, va bene, più 3,4, Eni più 2,8. Mentre tra i bancari vale la pena citare anche il Monte dei Paschi, che guadagna il 3,4%, e Generali più 1,24%, bene anche Telecom più 1,6%. Chi perde anche oggi? Prysmian meno 3,5, Pirelli meno 2,2, Bulgari 1,5% di calo, Lottomatica l'1,3% di calo, Fiat, dichiarazione oggi del numero 1 Marchionne da Parigi, meno 1,1%, A2A perde lo 0,6% come Mediobanca e come Autogrill. Complessivamente il MIBTEL, dicevamo, guadagna il 2%. Le altre borse, Parigi tra le più forti più 3,3%, e Francoforte più 2,6% in questo momento. Sul fronte borse vale la pena ricordare chiaramente anche come si muove Wall Street, più 2,3% per l'indice Dow Jones. L'ultima nota sul mercato riguarda il rapporto di cambio euro-dollaro, che è a 1,38 in questo momento. Quindi parleremo di federalismo fiscale, di politiche energetiche per il nostro paese, molti gli appelli di un avvio il più rapido possibile del ricorso all'energia nucleare. Parleremo anche dell'America per quello che riguarda invece il piano di salvataggio di Paulson. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. E allora partiamo dalla crisi finanziaria, perché se ne è parlato anche qui a Capri. Poco fa è intervenuto il ministro Tremonti su questo. nell'ordine. Questa mattina il numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, in un'intervista aveva definito come necessario il piano di Paulson, è necessario quindi approvarlo. Sempre Trichet, nell'intervista di questa mattina, ha definito la crescita europea più lenta del previsto e una crescita che potrebbe ulteriormente indebolirsi. Però Trichet ha detto l'obiettivo della Banca Centrale Europea è dare a quelli che saranno 320 milioni di europei la stabilità dei prezzi. Nel frattempo la banca americana Wachovia ha raggiunto un accordo per la cessione a Wells Fargo nell'ambito di un'operazione che vale circa 15 miliardi di dollari, quindi finirà nel controllo della Wells Fargo la banca americana, un'operazione che non necessita, da quello che si è capito, di nessun aiuto da parte del governo federale. E questo ha fatto salire Wachovia del 60% nella preapertura di borsa, però è intervenuto il gruppo, il colosso bancario Citigroup, che ha chiesto a Wachovia e Wells Fargo di mettere fine all'accordo raggiunto. Citigroup infatti valuta un accordo già siglato in precedenza lunedì scorso esclusivo e quindi ritiene che non potesse essere firmato questo accordo. Staremo a vedere, è interessante anche notare una specie di battaglia su un gruppo come Wachovia che era di fatto fallito. Nel frattempo UBS, la banca svizzera, la principale banca svizzera, una delle principali banche in Europa e la banca più colpita in Europa dalla crisi dei mutui subprime e degli strumenti strutturati derivati, taglierà altri 2.000 posti di lavoro da una parte investment bank. In questo modo i tagli complessivi operati dall'Unione delle Banche Svizzere, UBS appunto, arriveranno a 6.000 persone. E il patron di Dexia, Axel Miller, ha rinunciato alla sua buona uscita su richiesta del ministro francese all'economia Christine Lagarde, che ha detto se volete che si ricapitalizzi la banca franco-belga almeno abbiate di fatto la decenza di rinunciare a questo paracadute dorato. Non si ferma però l'Euribor, il tasso di riferimento interbancario europeo su cui si calcolano anche i mutui, non si ferma, dicevo, nella sua crescita, è volato al 5,34%, è un nuovo record anche in questo caso. Veniamo al fronte italiano, perché se il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che in Italia non accadrà quello che è successo in America, non c'è nessun rischio sui mutui, è intervenuto poco fa qui da Capri il ministro all'economia Giulio Tremonti, il quale ha detto che non è un problema di scegliere tra Stato e mercato, è un problema di etica quello che è accaduto nella crisi finanziaria in corso in America e in parte anche nel resto del mondo. La finanza non è un fine ma un mezzo. Io credo che questo ci debba portare, anche in dipendenza dei disastri causati da questa tecnologia, da questa cultura, da questa filosofia, da questa politica, ci deve portare a una riflessione fondamentale. La finanza non è un fine ma un mezzo, la finanza trasferisce ricchezza, ma la finanza non produce ricchezza. E non sto facendo un discorso arcaico, remoto, retrogrado, che riduce la modernità nell'industria. Cerco di dire una cosa che credo è stata e sarà fondamentale. La finanza è fondamentale, ma come mezzo, non come fine. E mai più come fine a se stesso. Così appunto circa mezz'ora fa qui dal palco di Capri il ministro Tremonti. Cambiamo tema e occupiamoci adesso della Fiat, già vi dicevo del titolo che perde l'1,2%, oggi il numero uno, l'amministratore delegato Sergio Marchionne, parlando a Parigi durante una riunione della CEA e visitando il Salone dell'Auto, ha chiesto all'Unione Europea di stanziare 40 miliardi di euro per aiutare il settore dell'automobile in Europa, così come è stato fatto negli Stati Uniti. E ha detto spero di non dover ritoccare gli obiettivi per quello che riguarda il gruppo Fiat, ma dobbiamo vedere lo sviluppo dei mercati internazionali. e in questo momento di crisi finanziaria occorre maggiore cautela sul buyback, ossia sul riacquisto di azioni proprie da parte del Fiat. E poi nel 2010 Alfa Romeo, negli obiettivi di Sergio Marchionne, dovrebbe sbarcare negli Stati Uniti. E dopo le dichiarazioni di Marchionne, il titolo Fiat è arrivato a perdere il 4%, poi tra l'altro si è ripreso, adesso perde l'1,3%, ma insomma preoccupano gli operatori soprattutto le dichiarazioni relative al 2009. E adesso passiamo al primo tema di questa puntata, 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri sms. Il tema si chiama federalismo fiscale, non è la prima volta che lo trattiamo, non sarà nemmeno l'ultima, anche perché i tempi sono, come indicato, all'incirca sui 2 anni, però insomma oggi il Consiglio dei Ministri, dopo l'incontro di ieri serata con le regioni e soprattutto con i comuni, oggi il Consiglio dei Ministri ha potuto varare il disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale e appunto dopo l'ok delle regioni è arrivato anche il parere positivo di comuni e province. E allora vediamo che cosa prevede questo piano federale del governo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Ricordo che si è sbloccato soprattutto perché ieri alla fine sono stati trovati 945 milioni di euro per compensare il mancato gettito ICI per i comuni. I comuni erano sul piede di guerra per questo motivo, devo dire comuni di qualunque colore politico, non solo quelli dell'opposizione. E allora il ministro dell'Economia Tremonti in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha detto: ho un obbligo per il governo fare il federalismo fiscale. Prima di ascoltare però le dichiarazioni, vi farei ascoltare questa scheda che per sommi capi riassume gli impianti principali di questo modello federale, a partire dal costo del servizio, dal costo medio di un servizio e anche dall'elemento che dovrebbe tentare e soprattutto cercare di eliminare un effetto sperequativo tra regioni più ricche e regioni più povere del paese. La riforma fiscale in senso federale è ancora un cantiere aperto, ma il via libera al disegno di legge arrivato oggi fissa alcuni punti fermi su cui disegnare un nuovo assetto statale. Con la riforma a regime, le regioni si faranno direttamente carico di sanità, servizi sociali e istruzione. Già oggi sanità e servizi sociali sono pertinenza delle singole regioni, ma il loro finanziamento avviene in grandissima parte attraverso trasferimenti dallo Stato centrale. Con la riforma, i fondi per sanità, servizi sociali e istruzione arriveranno invece da tasse locali e dal cosiddetto fondo perequativo. Al di là delle modalità, è infatti certo che le regioni avranno una maggiore capacità impositiva. Dovrebbero infatti incassare il gettito IRAP e una quota dell'IVA raccolta sul loro territorio. Il nodo più delicato riguarda le forti differenze di ricchezza che esistono tra le regioni italiane, e in particolare tra nord e sud del paese. Basti pensare che un cittadino lombardo versa in tasse 4.000 euro in più di quanto riceve poi sotto forma di servizi. Ogni anno paga infatti in media 17.000 euro di tasse e riceve servizi per un valore di 13.000 euro. All'opposto, un cittadino siciliano ottiene 2.648 euro in più di quanto versa. Il prelievo fiscale medio si ferma infatti a 7.982 euro, mentre la spesa pro capite in servizi è pari a 10.630 euro. Fino ad oggi queste differenze sono state compensate dal meccanismo dei trasferimenti statali. Con la riforma federale la compensazione avverrà invece attraverso il fondo perequativo, finanziato con i soldi dello Stato e, secondo alcune simulazioni, dovrebbe disporre di una dote di circa 25 miliardi di euro l'anno. Le regioni non potranno però attingervi a loro piacimento. Per ogni tipo di servizio verrà infatti identificata una spesa standard, calcolata prendendo a riferimento le regioni più efficienti. il fondo perequativo garantirà alla regione che non ce la fa solo con i suoi tributi la somma mancante per raggiungere questo livello standard di spesa. Il contributo del fondo non andrà però oltre quel limite e la regione che supererà l'asticella dovrà a quel punto finanziarsi autonomamente. Secondo una simulazione del Sole 24 Ore, l'applicazione di questo metodo dovrebbe tradursi in una cura dimagrante di circa il 15%. La spesa complessiva delle regioni per istruzione, sanità e servizi sociali dovrebbe infatti scendere da 113 a 96 miliardi di euro l'anno. Allora, questo l'impianto della riforma fiscale in senso federale, lo studio del Sole 24 Ore che citava la nostra scheda è stato realizzato da Gianni Trovati del Sole 24 Ore, che è in collegamento con noi. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Ascoltiamo un secondo il ministro Maroni, che proprio in questi istanti sta parlando di federalismo fiscale. Dai 14 ai 16 miliardi di euro, nella peggiore delle ipotesi. Io penso che sarà anche di più, perché scatta poi un meccanismo di competizione virtuosa, come succede in Svizzera. In Svizzera ogni comune addirittura ha la possibilità di attrarre investimenti mettendosi in competizione con il comune vicino e offrendo all'imprenditore che va un sistema fiscale, un pacchetto, diciamo così, fiscale per 2, 3, 4, 5 anni, che può arrivare anche a dire: tu vieni da me invece che nel comune vicino e per 5 anni non paghi le imposte se mi garantisci occupazione, eccetera eccetera. Questo sistema virtuoso io non vedo perché funziona in Svizzera non possa funzionare anche da noi. Se funziona e se funzionerà, se passa il meccanismo della responsabilità, io posso spendere i miei soldi come voglio, ma spendo i soldi miei, non i soldi di qualcun altro, ingenererà certamente quella virtuosità nella spesa pubblica che oggi è totalmente assente. Ministro. Allora, questo è il ministro Maroni, che, se avete colto, citava proprio il tuo calcolo, Gianni Trovati, ma non ci siamo messi d'accordo con Maroni. Il calcolo del Sole 24 Ore, un risparmio tra i 13 e i 15 miliardi di euro. Prima domanda, rispetto alla bozza originale, il testo che oggi è passato in Consiglio dei Ministri è simile o ha qualche, è identico o invece ha qualche punto di differenza? È simile sul fronte delle regioni, nel senso che i principi erano già stati fissati nella prima versione della legge delega approvata preliminarmente un paio di settimane fa dal Consiglio dei Ministri. Ha delle novità per quanto riguarda soprattutto i comuni, nel senso che sulle entrate dei comuni c'è stato un grande dibattito. Prima si parlava di fondare i bilanci locali su una tassa unica legata agli immobili, poi questa ipotesi è tramontata e adesso nella versione appena approvata, diciamo, rispunta una maggiore idea di tributi autonomi e di entrate proprie dei comuni. Bisogna vedere come si tradurrà in pratica, nel senso che queste novità definiscono i principi dentro i quali poi dovranno muoversi i decreti legislativi che dovranno attuare davvero la riforma. Rispetto agli obiettivi che questo federalismo fiscale vuole porsi, Maroni, lo abbiamo appena sentito in diretta, ha detto dovrebbe innescare anche dei meccanismi virtuosi come avviene in Svizzera e in altri paesi, perché i comuni si possono anche fare concorrenza avendo loro politiche fiscali magari di vantaggio per attrarre investimenti. Quali sono le criticità che tu vedi? La domanda che sta arrivando più frequentemente al 349-238-6666, ma insomma, come si fa a risparmiare dai 13 ai 14 miliardi di euro senza toglierli di fatto? È chiaro che la risposta è: molti di questi sono anche sprechi, ma insomma, le criticità più forti che tu vedi? Le criticità più forti sono nei numeri. Allora, tutti i commentatori, diciamo, guardando all'approvazione finale del DDL delega con i principi, hanno detto: bene, adesso passiamo ai numeri, cioè alla traduzione pratica di questi principi. E lì i problemi saranno molti, per alcune ragioni, alcune delle quali sono già emerse nel dibattito di queste settimane. Da un sistema basato sui costi standard, cioè su un livello predefinito di costo per ogni servizio, livello che va finanziato e garantito, ma oltre il quale non si deve andare, hanno tutto da perdere le realtà che negli anni hanno accumulato gli sprechi, le spese maggiori che non trovano riscontri nei servizi offerti, che sono sempre state finanziate a piedi lista a fine anno dagli interventi governativi. Va anche detto che questa moda, diciamo così, non è scomparsa nemmeno in questa epoca di grande federalismo, se vediamo ad esempio il contributo a Catania deliberato proprio questa settimana, e che per, come dire, togliere dalle secche un comune sull'orlo del fallimento. Ora, il principio è buono, nel senso che davvero se c'è un indicatore standard che è valido più o meno per tutti, differenziato a seconda dei servizi, chi non sta dentro dovrà trovare i soldi per spendere di più, e poi dovrà convincere i cittadini del suo comune, della sua regione, della sua provincia, che questo ulteriore sacrificio è dettato dall'esigenza di garantire migliori servizi e quant'altro. E quindi è un sistema che nella teoria, diciamo, è più trasparente, più confrontabile e più soggetto al controllo diretto da parte degli elettori. La traduzione pratica e le resistenze che questa traduzione in pratica incontrerà sono il problema, perché chi dalla trasparenza e dal confronto ha da perdere non si adeguerà con prontezza e con slancio, diciamo. Ma onestamente, Gianni, ma noi siamo meno preoccupati di quei comuni, province o regioni poco virtuosi che si troveranno ad avere un problema di dover risparmiare, fare meno sprechi, magari pagare qualche consulenza in meno e dare qualche servizio in più, o se no verranno, mi auguro, bastonati elettoralmente dai loro cittadini. Il mio timore, la domanda che ho per te è un altro, e cioè il caso di Catania che tu citavi, 140 milioni dati a Catania, anche con un bel po' di mal di pancia da parte della Lega, ma dati a Catania perché sennò lì non c'erano i soldi per pagare le bollette, abbiamo visto tutti qual era la situazione del comune di Catania. Ora il mio timore è un altro, e cioè nel momento in cui la regione o il comune o la provincia dovesse creare un buco di bilancio, e ancora non sappiamo, tu proprio ne hai scritto, quanto costeranno le operazioni sui derivati, sui mutui che molti comuni e province hanno messo in piedi, c'è chi stima 35 miliardi di roba in giro tra gli enti locali italiani, ma dico, nel momento in cui il comune dovesse fare come ha fatto Catania, cioè o la regione implodere sotto il peso dei debiti, che cosa succederà? Allora, un pizzico, un avviso di questa, di questo legame tra sprechi e responsabilità c'è già da un anno e mezzo, due, con il sistema dell'automatismo tributario che ti dice se tu spendi troppo, esempio regione per la sanità, e sfori i parametri massimi, hai un debito superiore a quello previsto, tu devi alzare al massimo tutte le aliquote e a pagare sono i tuoi cittadini. La speranza delle teorie che stanno alla base di tutte queste di tutti questi sistemi è che i cittadini, dopo aver visto che gli ospedali della loro regione magari funzionano male e sull'addizionale IRPEF magari hanno un'aliquota doppia rispetto a regioni dove invece la sanità funziona, bastonino elettoralmente chi ha permesso questa situazione. Dopo un po' di tempo, se questo principio ha una diffusione ampia, dovrebbe arrivare a prevenire le condizioni più disperate, diciamo così. Ripeto, questa è una teoria nobile quanto si vuole, discutibile quanto si vuole. Chiaramente il principio è sempre quello, che dove c'è uno sforamento nelle spese bisogna pagare. Oggi pagano più o meno tutti, domani pagheranno i più intensamente i diretti interessati rispetto agli altri. Sì, anche perché noi sappiamo che il dato è storico purtroppo, ma i due terzi del buco della sanità italiana sono fatti da tre regioni, Lazio, Sicilia e Campania. Ora, non so se questo fino adesso abbia voluto dire, non mi sembra anche un giudizio elettorale su chi ha amministrato queste regioni. Ci auguriamo che poi, se ho ben capito, il federalismo fiscale può funzionare come meccanismo, se a un certo momento queste regioni, non queste che ho nominato, ma qualunque regione, comune o provincia che non dovesse stare dentro i conti, si troverà obbligato a aumentare IRPEF, addizionale IRAP, tutte le imposte, per cui diciamo, premerà da un punto di vista fiscale sui suoi cittadini, e questo dovrebbe essere politicamente penalizzante. Questo però è il meccanismo fondamentale, Gianni, per concludere, perché funziona il federalismo, perché sennò, voglio dire, se non c'è anche una, in qualche modo una maggiore partecipazione e corrispondenza politica, tutto il meccanismo vacilla. Non c'è dubbio, con una forte iniezione di trasparenza che deve venire dalla pubblica amministrazione, nel senso che io oggi sfido chiunque non faccia l'assessore al bilancio nel proprio comune a sapere cosa c'è nei conti del proprio comune. Se il sistema è basato sul confronto e sulla trasparenza, gli indicatori chiave dovranno necessariamente emergere, e quindi fare permettere agli elettori e ai cittadini scelte un po' più consapevoli di quelle che accompagnano anche oggi le campagne elettorali locali, dove si discute di tutto tranne che della situazione economica e dei servizi dei propri comuni. Lo stesso caso Catania mostra che chi ha guidato la città, non nelle persone, ma voglio dire coalizione, chi ha guidato la città fino alla situazione attuale è stato trionfalmente premiato alle ultime urne. A Catania è successo con il centrodestra, in altre realtà locali è successo con maggioranze politiche diverse, ma alla base c'è proprio il fatto che spesso noi vediamo anche nei nostri comuni la campagna elettorale giocarsi sui grandi temi, nobilissimi per carità, della pace e della guerra, e meno invece sul fatto che gli asili funzionino, sì, che il patrimonio immobiliare del comune sia impoverito. Beh, poi comunque il cittadino si troverà di quella regione, di quei comuni, di quella provincia a pagare più tasse di un altro, con servizi a quel punto forse anche più scadenti. E da questo punto di vista respingo l'obiezione di chi scrive: non è corretto dire che il cittadino siciliano riceve più di quello che paga, scrivono alcuni ascoltatori, perché spesso hanno servizi peggiori. Beh, attenzione, i servizi peggiori li hanno perché ci sono amministrazioni peggiori, consiglieri peggiori, direttori generali peggiori, non perché manchino i soldi di trasferimenti. Andate a vedere i bilanci, visto che citate la Sicilia, della regione siciliana e dei vari comuni delle province, per vedere se veramente tutti i soldi sono utilizzati correttamente o se in realtà non ci sia una forma anche di rapporto poco produttivo, per usare veramente un'eleganza eufemistica, non dire altro, nel modo in cui le regioni, alcune regioni, usano questi soldi. Il cittadino riceve servizi peggiori perché vengono gestiti peggio dalla regione, non perché manchino i soldi alla regione, in questo caso Sicilia, che tra l'altro viaggia con un buco di bilancio che, se fosse uno Stato sovrano, avrebbe già, diciamo, dichiarato default. Comunque, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Adesso, visto Via Libera oggi del Consiglio dei Ministri al decreto sul federalismo fiscale, e poi parlare di borse. Buona oggi la giornata. Molti vostri commenti, insomma, questo è un tema che non esauriremo certo oggi, anche perché dalle dichiarazioni che sentiremo, insomma, i tempi sono di 2 anni almeno di transizione. Alcuni di voi non sono d'accordo sul fatto che gli elettori di quelle regioni, di quelle province, di quei comuni che non sapessero bene amministrare i soldi e dovessero poi essere costretti a aumentare l'IRPEF, l'IRAP, la parte addizionale, verrebbero poi punite elettoralmente. Vabbè, se gli elettori non le puniscono, vuol dire che le cose gli stanno bene così, per cui non vedo nessun problema. Il rapporto, diciamo, tra fisco e federalismo è che dovrebbe rendere più vicino anche il controllo e poi il giudizio. Uno magari può ritenere che vada bene pagare tante tasse perché la spesa, diciamo, pubblica della regione è stata una spesa appropriata, per cui pagherà più IRPEF e voterà lo stesso consiglio regionale uscente, non c'è nessun problema. Ancora, per quello che riguarda invece il federalismo fiscale in senso stretto, molti di voi vogliono sapere, usano il paragone di Catania, dicono che c'è anche il comune di Roma. Per carità, abbiamo detto, ci sono 3 regioni nel caso della sanità che da sole fanno il 70% del buco della spesa sanitaria italiana. Comunque, andiamo avanti con le reazioni sul federalismo fiscale dopo l'analisi del nostro Gianni Trovati, perché di questo ha parlato oggi in conferenza stampa il ministro, anche il ministro Giulio Tremonti. 2 anni per farlo è un tempo saggio, ha detto Tremonti, è una riforma storica quella che oggi è passata dal Consiglio dei Ministri. Quella del federalismo fiscale è una riforma storica. Sarà un lavoro molto complesso, ma fondamentale per andare avanti. poi inizierà il lavoro, su questa base, il lavoro di attuazione della delega, di integrazione della delega con uno o più decreti delegati. Il tempo per la delega, apparentemente lungo, è in realtà un tempo che consideriamo saggio, 2 anni. È il tempo normale per riforme di questa cifra. Poi l'entrata in vigore potrà essere ancora ulteriormente differita secondo le condizioni che verificheremo. Ma il lavoro inizia da oggi, in Parlamento. Credo che sarà fondamentale riflettere da dove veniamo, quali sono le tappe di un percorso che è andato per alti e per bassi. Nel 1994 abbiamo presentato un testo, c'è stato un processo che è passato attraverso la bicamerale, la Bassanini, un testo che è quello delle regioni sul quale oggi discutiamo, che parte dal 2002. E siamo arrivati a oggi. È comunque molto importante flashback, vedere da dove siamo venuti, in che termini e modi abbiamo raccolto alla fine un consenso generale. Un consenso che, ripeto, va dalle maggiori istituzioni ai comuni che hanno tutti insieme, alle regioni, le forze politiche in Parlamento hanno alla fine espresso un grande consenso su questo testo. È stato molto complicato ieri, ma alla fine è stato straordinariamente positivo avere il consenso delle regioni, delle province, dei comuni. E ricordo che il consenso, l'accordo con i comuni si è avuto ieri in serata, solo dopo che è stata sbloccata la parte del mancato introito dell'ICI e quindi sono usciti questi 935 milioni di euro. Molti di voi ci chiedono anche al 349-238-6666 se già sono stati individuati questi costi standard per il servizio erogato, che come spiegava la nostra scheda sono alla base di tutto questo federalismo fiscale. No, non sono ancora stati individuati, lo ha chiarito oggi anche il ministro Calderoli, ministro della semplificazione. Non c'è nel decreto un riferimento ai costi standard di un servizio offerto da una regione. Adesso infatti, ha aggiunto Calderoli, sarà la volta di integrare questo decreto poi con i numeri. Il testo che è stato oggi approvato consente di fare il passaggio da un federalismo irresponsabile a un federalismo responsabile. Quello che è stato approvato oggi non è una cosa, è un fatto straordinario, il fatto dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Lo straordinario è il consenso raccolto ieri in conferenza unificata. Ho detto federalismo irresponsabile perché fino ad oggi le introduzioni, i passaggi in senso federalista sono sempre stati calati dall'alto, spesso con maggioranze politiche risicate, ma senza mai coinvolgere i soggetti che poi devono concorrere alla costruzione di questo assetto del Paese. Il fatto di aver preso la strada di una costruzione dal basso, partendo prima di tutto dalla proposta che veniva dai vari livelli di governo con cui lo Stato si sarebbe poi confrontato nella costruzione e nel cammino del federalismo, credo che sia la strada che abbia dato i maggiori frutti. Sono convinto che il lavoro si debba continuare, è un lavoro lungo e complicato, ma sia l'unico strumento con cui uscire da tutti i problemi che abbiamo intorno. Questa collaborazione tra i vari livelli istituzionali che si realizza per la prima volta, perché ricordo che nessun testo di federalismo fiscale ha mai superato il vaglio della conferenza Stato-Regione, ma ha sempre ricevuto un parere negativo. Allora, chiudiamo con l'intervento del ministro Calderoli anche la pagina dedicata al federalismo fiscale. Ripeto, ci sarà modo per tornarvi sopra con vari esempi, varie analisi. Alcuni di voi dicono, beh, insomma, il rischio è che tutto venga fatto pagare alla nuova giunta, alla nuova coalizione politica entrante. Sì, ho capito, però anche questo è un risultato politico. Abbiate pazienza, se una coalizione perde le elezioni regionali o comunali o provinciali perché a mal gestito i soldi, è comunque un segnale politico. Poi starà anche la maturità dei cittadini riconoscere che le colpe non sono del nuovo arrivato ma della vecchia gestione, creare sperequazione. Ma di fatto, voglio dire, nella sanità sappiamo già che c'è tutto un viaggio della speranza dal sud al nord del paese e anche fuori dall'Italia. Non mi sembra che in questo momento si sia di fronte al migliore dei mondi possibili se si vanno a vedere i costi della sanità in molte regioni del Mezzogiorno e i servizi realmente offerti. Comunque, tutte le opinioni sono legittime. Oggi molto buona la giornata, o comunque decisamente buona la giornata nel finale, dopo che in realtà le borse avevano aperto tutte abbastanza incerte. L'S&P MIB chiude con un rialzo del 2,6%, il 3% è il rialzo di Parigi e per quello che riguarda Francoforte siamo al 2,4%. L'America sta andando bene, più 2% il Dow Jones, e ancora per quello che riguarda invece i singoli titoli, oggi in netta crescita tutto il settore bancario. Perché? Perché il governo tedesco ha ottenuto il via libera all'operazione di salvataggio di fatto del gruppo Hypo, e quindi dalla Commissione Europea da un lato, e dall'altro si è scatenata quasi una battaglia per il controllo del gruppo americano Vachovia, che di fatto era fallito. C'era stato un primo accordo con Citigroup, come raccontavamo all'inizio del programma, oggi è arrivata un'offerta da 15 miliardi di dollari di Wells Fargo, e questo insomma ha fatto salire un po' tutto il settore. Paolo Paronetto, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Questi due elementi, dimmi se c'è qualcosa che ho dimenticato, e se no andiamo sui singoli titoli a partire da Unicredito e Popolare di Milano, più 9,6%, Unicredit più 7,3% la Popolare di Milano. Certo, anche a Piazza Affari i titoli bancari e finanziari sono stati in gran spolvero, soprattutto sul finale della seduta. Unicredit, con il rialzo odierno, ha riconquistato quota 3 euro per azione, che era stata abbandonata al ribasso lo scorso 29 settembre. Molto bene anche i titoli della Popolare di Milano, ma anche Intesa San Paolo ha messo a segno un buon rialzo, superiore al 3%, mentre a livello europeo il sottoindice delle banche ha guadagnato oltre il 6%, mentre quello delle assicurazioni il 3,6%. Oltre ai fattori che hai ricordato tu, a spingere il rimbalzo su tutti i titoli è stato il sempre crescente ottimismo sul voto alla Camera dei rappresentanti statunitense sul piano anticrisi inizialmente promosso dal Tesoro, voto che dovrebbe iniziare tra una decina di minuti verso le 18 ore italiana, e sembra dalle dichiarazioni dei rappresentanti di Repubblicani e Democratici che ci siano buone possibilità questa volta di un voto positivo. Allora, per quello che si tratta, il Senato americano non ha ancora fatto passare, perché stiamo guardando adesso anche le agenzie, non ha ancora fatto passare il piano polso, no? O sbaglio, Paolo? No, appunto, il voto dovrebbe iniziare, è stato approvato un primo passaggio procedurale, ecco, adesso il voto dovrebbe cominciare entro una decina di minuti. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti con i titoli. Le parole di Marchionne da Parigi hanno penalizzato non poco oggi il titolo Fiat, nel senso che Marchionne ha detto: forse saremo costretti a rivedere alcuni obiettivi per il 2009, ha chiesto che l'Europa vari un piano da 40 miliardi di euro per il settore automobilistico europeo come fatto in America. Questo ha preoccupato non poco il mercato, poi il titolo ha chiuso sopra i minimi di seduta, chiaramente, ma è arrivato a perdere oltre il 3%, però il calo dell'1,3%. Paolo? Sì, esattamente, Fiat ha chiuso la seduta in territorio negativo e in netta controtendenza rispetto al comparto europeo, che ha rimbalzato dopo la flessione di ieri guadagnando a livello di settore il 3,8%, e sono state proprio le parole di Marchionne a deprimere il titolo. L'amministratore delegato di Fiat, pur confermando gli obiettivi per il 2009 del Lingotto, ha detto: spero di non doverli ritoccare, quindi ammettendo la possibilità di dover rivedere i target se la crisi dei mercati continuerà. Ovviamente il mercato, gli investitori sono concentrati su questo aspetto, al di là della conferma dei target che Marchionne fa ormai da tempo, penalizzando il titolo con l'ordine di vendita e spingendolo a un calo dell'1,3% a 8,5 euro. Ancora sui titoli, per quello che riguarda il settore energetico, oggi giornata altalenante, non solo per un prezzo del petrolio che anch'esso è sceso a 92 dollari al barile, l'euro è 1,38 in questo momento, però abbiamo visto andare bene Snamret Gas, più 2,9%, Enel più 1,4% e Eni più 1,80%. Visto che citavo però i bancari, vorrei concludere la carrellata con Mediolanum più 3,7, Intesa più 3,5, il Banco Popolare più 3,1%, Ubibanca più 2,90, Monte dei Paschi più 2,2 come Fondiaria SAI, e bene anche, che non c'entra nulla con i bancari, Telecom Italia. In più debole oggi, soprattutto nella prima parte della seduta, il comparto del lusso. Paolo? Sì, oggi soprattutto all'inizio, come dicevi tu, ma comunque Bulgari ha chiuso a meno 1,21% e Luxottica ha chiuso in rialzo, con un rialzo soltanto dello 0,42%, nonostante il rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro che premia società esposte sul mercato statunitense. E l'andamento inferiore rispetto al listino è dovuto ai timori per un calo dei consumi che ovviamente colpisce in primo luogo anche il settore del lusso, ovviamente il calo dei consumi legato alle prospettive di rallentamento dell'economia che continuano ad aleggiare sui mercati azionari mondiali. Oggi è arrivato un nuovo dato negativo dagli Stati Uniti relativo alla disoccupazione. Se a settembre il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,1%, infatti sono stati persi ben 159.000 posti di lavoro, una cifra molto superiore alle stime degli analisti che prevedevano una perdita limitata a 100.000 impieghi. Allora, questo per quello che riguarda i titoli maggiori. C'è una novità oggi anche su Banca Italease, non ne parliamo da un po' di tempo, nel senso che quello che era stato un grosso, diciamo, crack, problema di liquidità, è scomparso di fronte ai crack da 90, diciamo, di Wall Street, ma oggi il titolo si è mosso e non male. Sì, oggi infatti c'è stata una novità sul fronte delle trattative per la nascita di una joint venture tra Italease e VR Leasing del gruppo tedesco DZ Bank. Infatti Italease ha comunicato che di aver convocato un CDA straordinario per il prossimo 10 ottobre e il board sarà chiamato ad approvare una lettera di intenti spedita appunto da DZ Bank a Italease per proporre la nascita effettiva di questa joint venture. Il titolo in borsa ha reagito positivamente alla notizia e ha chiuso la seduta in rialzo del 4,1%, vicino a 4,6 euro per azione. In una battuta, novità su Prysmian, perché in un mercato quasi tutto positivo, oltre a Fiat e Pirelli che ha perso il 2,3% e ai titoli legati al dollaro euro, Prysmian è il peggiore, meno 3,3%. Prysmian archivia anche oggi un'altra seduta negativa dopo il calo vicino al 6% registrato ieri. Non ci sono notizie particolari sul titolo. Dalle sale operative si segnala naturalmente che Prysmian è una di quelle società che è molto presente nei portafogli degli investitori istituzionali, soprattutto esteri. Il primo azionista è Goldman Sachs e quindi in una fase come questa può essere soggetto a movimentazioni tecniche e in particolare in questo periodo quindi vendite da parte dei fondi che hanno bisogno di liquidità, e le osservazioni operative appunto spiegano in questo modo i cali di questi giorni. Il movimento del titolo. Grazie a Paolo Paronetto e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Le 18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dagli studi di Radio 24 a Capri. E allora, piccola modifica della scaletta, dovremmo parlare, lo faremo anche di energia, ma visto il tema del giorno, visto che il tema del giorno riguarda il federalismo fiscale, ci ha raggiunto ai nostri microfoni e qui negli studi di Radio 24 il ministro all'interno, Roberto Maroni. Buonasera ministro. Buonasera a voi. Un primo tema economico visto il programma, poi magari anche un tema a cavallo tra economia e sicurezza del mondo dell'impresa, visto che lei è reduce proprio dal casertano. Federalismo fiscale, ne abbiamo parlato lungo tutta la prima ora del programma, gli interventi dei suoi colleghi di governo Calderoli e Tremonti, per voi è chiaramente un successo. Lo dico subito, visto che lei ascolta anche Radio 24 e conosce questo programma, gli sms che stanno arrivando dicono sì, però è dubbio che l'elettore che si vede punito fiscalmente perché il comune, la regione, la provincia non ha saputo, diciamo, ben gestire i fondi, siamo così sicuri che poi questo porti anche un giudizio elettorale? Questo è un meccanismo fondamentale in un federalismo fiscale sano, se ho ben capito. Sì, certo, il principio è che si attua il sistema che noi sintetizziamo con uno slogan padroni a casa nostra. Io sindaco posso disporre delle risorse che ho a disposizione come credo, sono libero di farlo e so che posso contare su queste risorse. Devo dare risposte ai miei cittadini, se do le risposte giuste, bene, se no sarò punito dal punto di vista elettorale. Il principio, si afferma il principio della responsabilità, io sono responsabile direttamente e non posso scaricare su altri le colpe, non solo, non posso neppure spendere e poi far pagare ad altri, cosa che purtroppo succede soprattutto in sanità. Questo introduce dei meccanismi virtuosi che alla fine faranno rendere servizi migliori a costi inferiori. Ministro, su questo fronte i tempi di attuazione sono intorno ai 2 anni e secondo lei quando si arriverà al famoso costo standard del servizio che, se ho ben capito, è l'architrave di tutta questa riforma fiscale in senso federale? L'architrave, la vera rivoluzione è il passaggio dal costo storico al costo standard, e cioè i costi delle prestazioni, i trasferimenti ai comuni, le risorse non saranno più basate su quanto uno ha speso, ma sul costo minore che c'è, e quindi la prestazione dal punto di vista finanziario migliore che c'è in giro per l'Italia. Quello sarà il punto di riferimento. Una radiografia non potrà costare 10 a Belluno e 100 o 200 in un'altra città. Oggi avviene così, purtroppo. Ci vorrà del tempo perché ci sono comuni virtuosi e comuni non virtuosi e bisognerà progressivamente passare a garantire le stesse prestazioni riducendo i costi, ma l'importante è che si sia affermato questo principio, che è il principio rivoluzionario del federalismo responsabile. Mi preoccupa meno il tempo che ci vorrà, l'importante era far passare oggi l'affermazione di questo principio. È passata all'unanimità in Consiglio dei Ministri, che mi fa pensare che rapidamente sarà approvato dal Parlamento, e poi ci sarà una fase di attuazione che, come tutte le grandi riforme, richiederà un po' di tempo, ma la prospettiva ormai è segnata, la svolta è stata decisa. Ho ancora 2 rapidissime domande per lei. Un'altra obiezione che arriva al 349-238-6666 è: beh, il caso di Catania però sembra andare in un'altra direzione. Un comune dissestato, lasciamo stare i motivi, le giunte, lo Stato è dovuto intervenire per forza di cose, si era arrivati all'assurdo di non avere i soldi per le bollette con un finanziamento di 140 milioni di euro, su cui ho visto anche molti esponenti del suo partito essere abbastanza scettici. Diciamo che per chiudere la partita del federalismo abbiamo dovuto accettare in chiusura della partita anche questo intervento, ma è l'ultimo intervento, ormai il federalismo è stato approvato, in un sistema federale queste cose non succedono né possono succedere, quindi diciamo che è stata chiusa una pagina di inefficienza con questo ultimo in extremis intervento, ma la prospettiva adesso è cambiata. Ultima domanda, lei è reduce, è qui a Capri, ma questa mattina era a Caserta a visitare anche i luoghi in cui verranno schierati, se ho ben capito, i parade della Folgore. Vorrei capire se a questo punto tutte le così divergenze dialettiche con il Ministro della Difesa si sono risolte e che situazione ha trovato. No, non c'è stata nessuna divergenza, una diversa valutazione, ma più che altro lessicale, che però non ha portato a nessun ritardo nello schieramento. Abbiamo deciso di farlo in tempi ultra rapidi, l'abbiamo fatto. Ieri è stato pubblicato il decreto legge, ieri mattina, ieri pomeriggio ho fatto la riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza e questa mattina io e la Russa abbiamo firmato il provvedimento. Sono venuto subito a Caserta a fare la riunione con i comitati provinciali, nel pomeriggio vengono individuati i siti dove schierare i militari e già da domani mattina, quindi a tempo di record in 24 ore, vogliamo continuare ad esercitare una pressione formidabile sul territorio per togliere l'acqua ai pescecani e ai killer, scovarli, arrestare i latitanti e cominciare a bonificare l'ambiente. Continueremo e rimarremo lì fino a che l'ambiente non sarà bonificato. Non è una risposta emergenziale dello Stato a un'emergenza, è una risposta all'emergenza criminalità che continuerà fino a che l'emergenza non sarà rientrata. in bocca al lupo anche per questa attività, visto che questo è un elemento fondamentale per il contesto e poi l'ambiente economico. Non ci può essere sviluppo economico se non c'è legalità e garanzia di legalità. Grazie al ministro Roberto Maroni, nostro ospite. Grazie a voi. Chiedo invece venia per un errore: non è il Senato ma è la Camera americana, contrariamente a quanto detto prima delle informazioni per chi è in viaggio, che deve varare il piano Paulson di salvataggio dell'economia americana, è un po' eccessivo, di salvataggio di parte del sistema finanziario americano, 700 miliardi di dollari il valore del piano, che come abbiamo spiegato più volte in sostanza permetterà, se passerà anche alla Camera, di depositare i titoli tossici, i prodotti tossici come vengono mai chiamati. Abbiamo usato l'esempio di un grande frigorifero, di un grande congelatore per almeno 2 anni e avere appunto garanzie su questo e non portarli in bilancio come svalutazioni, quindi come perdite effettive. Mario Platero, corrispondente Sole 24 Ore da New York, buonasera. Buonasera, beh, direi spero che la mia... un'altra giornata intensa sotto ogni punto di vista, attacchi da 3 fronti in questo caso. Ovviamente siamo qui incollati davanti alle dirette televisive dal Congresso, dalla Camera in particolare, dove sta per finire il dibattito e dove fra poco si vota per il pacchetto da 700 miliardi, un voto un po' alla suspense, come succede in questi casi, soprattutto dopo l'incidente di lunedì, perché la leadership non si vuole più sbilanciare, si era sbilanciata domenica, si era sbilanciata lunedì mattina, avevano dato l'accordo per blindato e il voto ormai concluso è a casa e sono stati sconfitti, quindi oggi c'è più prudenza, quindi aspettiamo l'esito del voto, l'atmosfera, l'umore è che alla fine questo pacchetto passerà, chiuderemo questo tormentone dei 700 miliardi di dollari e volteremo pagina. Questo era il primo fronte. Il secondo fronte, una notizia che ha dato uno scossone a Wall Street, è la Wells Fargo che ha deciso di mettersi in mezzo fra l'accordo di Citigroup per comprare la banca Wachovia, la quarta banca americana, ricordiamolo, che era in procinto di fallire, poi ci fu un accordo mediato dal governo americano nel fine settimana, Citi l'ha acquistata. Ebbene, Wells Fargo, che aveva detto di essere interessata, si è messa in mezzo, ha fatto un'offerta superiore a quella di Citi, ha detto di non volere gli aiuti federali, si è messa d'accordo con i vertici di Wachovia, il consiglio di Wachovia ha approvato l'offerta di Wells Fargo, quindi tecnicamente oggi Wells Fargo ha soffiato Wachovia sotto il naso di Citigroup, soffiato è un termine relativo perché l'ha pagata molto più cara di quello che la pagava Citigroup, 15 miliardi di dollari contro i 2,60 miliardi di dollari che pagava Citigroup, tra l'altro solo per una parte degli asset di Wachovia e in più con la garanzia federale. È esplosa una polemica senza fine perché Citigroup dice che era un suo diritto esclusivo l'acquisto di Wachovia, che l'aveva aiutata negli ultimi giorni pompandogli liquidità e che quindi non solo è suo diritto, ma legalmente Wachovia è sua. Dunque, battaglia legale, ma l'elemento positivo è che per una volta una banca, Wells Fargo appunto, è intervenuta per rilevare Wachovia, quindi una banca in difficoltà, senza chiedere garanzie allo Stato, pagando un prezzo enormemente superiore a quello che offre la concorrenza, garantendo la continuità dell'occupazione e delle attività della banca. Ecco, vedremo come andrà a finire, perché è chiaro che è un altro capitolo avvincente che si apre, ma la mia impressione qui è che Wells Fargo, banca californiana, dice ma perché tutti questi affari devono essere consumati a Wall Street, a New York o sulla costa orientale? Sono state Goldman, Merrill, Citigroup, JP Morgan che finora hanno fatto banchetto attorno ai resti di quel che restava delle banche di investimento in difficoltà. Ebbene, anche la California vuole avere un ruolo. la Bank of America, ricordiamo, tecnicamente la sede è al sud, nel South Carolina, quindi è un'altra regione americana che ha partecipato e sta prevalendo da un punto di vista di assetto strategico una piattaforma che poggia su tre pilastri, quello appunto californiano, quello del sud e quello della costa orientale. Citigroup ha detto che probabilmente farà causa. Questo era il secondo fronte di stamattina. Il terzo economico, tasso di disoccupazione molto scoraggiante, 150.000 disoccupati nell'ultimo mese, nel mese di settembre, il tasso resta al 6,1%, ma questo aumento conferma quello che si aspettano tutti, e cioè che nel quarto trimestre di quest'anno avremo forse un'economia già in territorio marcatamente negativo e dunque in recessione. Il mercato ha digerito queste tre notizie e direi che alla fine ha concluso che le cose volgono al bello. Il piano sta per passare, questa dimostrazione di forza di Wells Fargo è stata presa in modo molto positivo, il tasso di disoccupazione, le difficoltà economiche erano scontate e dunque il Dow Jones è al rialzo di 200 punti circa. Infatti è superiore al 2%. Mario, un paio di domande rapidissime perché siamo in chiusura. Che cosa potrebbe, diciamo, ostacolare il passaggio, il sì del congresso al piano Paulson, visto che è già passato al Senato? C'è un pacchetto aggiuntivo da 150 miliardi di dollari di riduzione fiscali. Molti democratici non hanno apprezzato queste riduzioni fiscali e dunque si teme che alcune riduzioni fiscali inserite, diciamo così, per ammorbidire le posizioni dei repubblicani, con una serie di iniziative parallele molto bizzarre, da un piano di aiuti per certe piste di corsa per auto e motociclette, a un piano di aiuti per le isole Samoa, a un ammortamento accelerato per quelli che producono freccette di legno nei campi indiani, insomma una serie di iniziative molto bizzarre che sono state aggiunte a questo pacchetto per così, diciamo, attirare, trascinare i deputati più recalcitranti, visto che alcune di queste misure poi favoriscono le loro piattaforme elettorali. La paura è che alcuni democratici facciano marcia indietro, ma direi per ora è soltanto una delle ipotesi, tu mi chiedevi di citarne alcune, e potenzialmente negative. L'altra è che qualche deputato possa decidere di inserire qualche emendamento e bloccare il tutto. Sì, da come la raccontavi tu sembra un po' l'assalto alla diligenza che avveniva soprattutto negli anni passati alle nostre leggi finanziarie in Parlamento. In 30 secondi, Mario, nel confronto televisivo di ieri tra i due vicepresidenti, quindi Paulin e Biden, sul fronte economico della crisi finanziaria, secondo te chi ha saputo dare risposte, se risposte sono arrivate? 30 secondi. Secondo me ha fatto meglio Biden, perché la Paulin ha continuato a puntare su Wall Street, ha continuato a dire che Wall Street è in difficoltà e che Wall Street assorbe i soldi degli americani, ma erano un po' delle battute a slogan, delle battute un po' vuote, come se le avesse memorizzate, un po' da Bignami se vuoi, mentre Biden è apparso molto più presidenziale e serio, ha spiegato la natura della crisi e l'importanza di passare questo pacchetto per l'interesse di tutti gli americani e dell'economia. Secondo me ha fatto meglio Biden. Ci confermi quello che chiedono gli ascoltatori, che a questo punto con gli sgravi fiscali il valore del piano Paulson passa da 700 a 850 miliardi, è corretto dirlo? Direi che non è corretto tecnicamente e contabilmente, sono due voci separate. Okay. Il pacchetto Paulson per rilevare le attività in difficoltà, i cosiddetti strumenti finanziari tossici, vale 700 miliardi, è rimasto grosso modo invariato a parte qualche minima modifica. Questi erano dei progetti di legge separati che, come spesso accade, sono stati agganciati all'ultimo momento, ma erano progetti di legge che magari sarebbero stati discussi fra una settimana, fra due, fra tre, che avrebbero avuto difficoltà e che comportavano delle iniziative, ho dato qualche esempio prima, che nulla hanno a che fare col piano di aiuti finanziari. Quindi Intuitivamente sì, 850, tecnicamente no. Tecnicamente no, sono due cose diverse. Grazie anche a Mario Pratero in collegamento con noi dagli Stati Uniti, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia in diretta da Capri. I temi energetici domani li tratteremo in uno speciale in onda dalle 17.30 in poi. Un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Gaia Romani per l'assistenza in redazione, a Paolo Corleoni, Davide Cioccia per l'assistenza tecnica qui negli studi di Capri. Noi ci risentiamo domani dalle 17.30 alle 18 per lo speciale di Radio 24. A tutti coloro i quali non ci ascolteranno, buon fine settimana comunque, e ci risentiamo lunedì.